Ah, dalla generazione dei tape, delle fans in bianco e nero, Underground Solution Lifestyle 96, Tess e che gli da Fat Kick, questo è da Lost Mix. E se non mi vedi in giro perché? Degli stronzi ne abbastanza, socializzare qua è come veder parlare un ubriaco ed una danza. Trice, in cui l'ubriaco sono io, rincoglionito da un posto che non fa il caso mio. Guardo su e cerco un dio, cerco e non lo trovo e più ci penso, più mi viene il dubbio come decrescenzo. Il lato denso è che ciò nonostante non mi fermo. E se non mi vedi in giro, ci vedremo all'inferno. La vita punta ad allargarla più che ad allungarla, e sono io a farla, mentre tu stai a guardarla scorrere davanti a te come un end to end che non capisci che cos'è, ma anche tu vorresti farlo. Beh, apro la stanza, unisono di sentimenti, rilascio andare ad acchiappare i suoni più potenti dentro la vibra giusta, in deep concentration come prima, mentre rimo zero viaggi da escalation. Fuori dalle mode, dai maglioni a quadri, colletti sollevati, regalati dalle madri. Io punto solo ad aumentare il mio equipment per flasharmi e darti ciò che poi tu copi. La gente vuole, sì, ma vuole solo regali. Asco, spendi bene in canne, investi sui tuoi ideali e non dire che non ti cago perché sono un atteggiato. Io non ti cago e boh, fuori dal mio tracciato. Underground Solution è il posto, prendo posto ad ogni costo, ad ogni costo, e faccio io il posto. E ciò che ti mostro è poco rispetto a quel che posso, insomma tengo io il mio posto. E questo non è un disco ma è uno skit nella vita rispetto a quel che ho previsto. Umiltà, rispetto, originalità e stile, fai scintille, io del tuo blasta carico le pile. Mi differenzio perché il mio nome in giro non lo trovi associato a qualche feat che c'ha già il tiro. Miro a darti ciò che non ti danno, non mi interessa fare il botto per poi scoppiare dopo un anno. E poi lo senti, il suono che ti porta in hip hop, non canta sala black, solo soul e soul fan. Uso battiti che altri non usano, economizzo, entro spruzzo solo stilo, poi esco e mi mimetizzo. Sotto il cappuccio occhi, viola come pochi, con cui noti fuochi fatto in corpi vuoti. E basta rovinarmi scarpe su facce di stronzi che parlano come fonzi, ma sono solo bonzi. Non cerco accozzi, non esco con rozzi, ho voglia di star tranquillo, mi rilasso giù al box. Il rosso su sfondo bianco e nero come Cinderis, parlano male di me ma mi vogliono in tracklist. Ci parli, sembra davvero fandanza, termini che mi sbronzano, sceso dentro la stanza. Sento lo stress che avanza, monto un'altra sequenza, prendo la carta e penna come un tossico in astinenza. Scrivo veloce perché temo la mia RAM e spingo solo boom bam ad ogni jam. Underground Solution è il posto, prendo posto ad ogni costo, e faccio io il posto. E ciò che ti mostro è poco rispetto a quel che posso, insomma tengo io il mio posto. E questo non è un disco ma è uno skit nella vita rispetto a quel che ho previsto.